Marco, capitolo sesto. Poi si partì di là, e venne nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguitarono. E venuto il sabato, si mise ad insegnar nella sinagoga, e la maggior parte, udendolo, stupivano, dicendo, «Donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? Che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua?» Non è costui il falegname, il figliolo di Maria, e il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui con noi? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro, «Niun profeta è sprezzato se non nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E non poté far quivi alcuna opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi li guarì». E si meravigliava della loro incredulità, e andava intorno per i villaggi circostanti, insegnando. Poi chiamò a sé i dodici, e cominciò a mandarli a due, e dette loro podestà sugli spiriti immondi, e comandò loro di non prender nulla per viaggio, se non un bastone soltanto, non pane, non sacca, non denaro nella cintura, ma di calzarsi di sandali e di non portar tunica di ricambio. E diceva loro, «Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi quivi, finché non ve ne andate di là. E se in qualche luogo non vi ricevano né v'ascoltano, andandovene di là, scuotetevi la polvere di sotto i piedi, e ciò serva loro di testimonianza». E partiti predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Ora, il re Erode udì parlare di Gesù, che la sua rinomanza si era sparsa, e diceva, «Giovanni Battista è resuscitato dai morti, ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose». Altri, invece, dicevano, «È Elia», ed altri, «È un profeta come quelli di una volta». Ma Erode, udito ciò, diceva, «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato», poiché esso, Erode, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni, infatti, gli diceva, «Non t'è lecito di tenere la moglie di tuo fratello». Ed Erodiada gli serbava rancore e bramava di farlo morire, ma non poteva, perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno che Erode, nel suo natalizio, fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani e ai primi della Galilea, la figliuola della stessa Erodiada, essendo entrata, ballò e piacque ad Erode ed ai commensali. E il re disse alla fanciulla, «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò, «Ti darò quel che tu mi chiederai fino la metà del mio regno». Costei, uscita, domandò a sua madre, «Che chiederò?» E quella le disse, «La testa di Giovanni Battista». E rientrata subito frettolosamente dal re, gli fece così la domanda. «Voglio che, sul momento, tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu grandemente attristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dire di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di lui. E quegli andò, lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto e la dette alla fanciulla, e la fanciulla la dette a sua madre. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Or gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevan fatto e insegnato. Ed egli disse loro, «Venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'». Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non potevano neppure mangiare. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario e in disparte, e molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero là ai piedi e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnar loro molte cose. Ed essendo già tardi, i discepoli gli s'accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi, licenziali, affinché vadano per le campagne e per i villaggi d'intorno a comprarsi qualcosa da mangiare». Ma egli rispose loro: «Date lor voi da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare per 200 denari di pane e daremo loro da mangiare?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Ed essi accertatesi risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a brigate sull'erba verde, e si assisero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente, e i 2 pesci sparì pure fra tutti. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti dei pesci, e quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli licenzierebbe la moltitudine. E preso commiato se ne andò sul monte a pregare, e fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E vedendoli che s'affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò alla loro volta, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si dettero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «State di buon cuore, son io, non temete!» E montò nella barca con loro, e il vento s'acquietò, ed essi più che mai sbigottirono in loro stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il cuor loro era indurito. Passati all'altra riva vennero a Genesaret e vi presero terra, e come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che egli si trovasse, e dappertutto dove egli entrava, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, posavano gli infermi per le piazze e lo pregavano che li toccasse, non fosse altro con il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti.